Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buon sabato, benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Oggi nella nostra consueta copertina mettiamo una parola di cui tutti noi questa settimana abbiamo sentito parlare o letto: vaccino. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Guido Rasi, professore di microbiologia all'Università Tor Vergata di Roma, già direttore esecutivo di EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Professor Rasi, grazie e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Professor Rasi, in realtà io nella copertina ho messo vaccino, ma avrei dovuto usare il plurale, perché sono naturalmente più di uno, questo lo sappiamo, ma quando c'è la scelta viene spontaneo chiedersi: ma qual è il migliore? Ce n'è uno migliore degli altri? Professore. Ma guardi, il vaccino ha detto bene, sono più vaccini, ce ne sono già tre praticamente in arrivo e ci aspettiamo entro il 2021 di averne sei o forse sette. Non si sa a questo punto se uno sia migliore dell'altro, forse emergerà qualche dato dalla review finale dell'EMA, dall'analisi dei dati insomma più approfondita. Non ci sono in questo momento sostanziali differenze. Posso dire con buona certezza che il miglior vaccino sarà il primo disponibile a questo punto. Poi se qualche fascia di popolazione emergerà che sarà più avvantaggiata da un vaccino piuttosto dall'altro, se questo emergerà ci consentirà di raffinare la campagna, ma per ora non ci sono sostanziali grosse differenze. Professor Rasi, veniamo al tema della sicurezza. Allora, guardi, la sicurezza dei vaccini è tradizionalmente altissima. In questo caso molti si chiedono come mai in 328 giorni si è potuto fare un vaccino. Senza che le spiego tutti i passaggi, le posso dire quello che è riassuntivo e emblematico. I passaggi sono stati fatti tutti, sono stati fatti più in fretta perché si sono allocate risorse umane e finanziarie eccezionali, si è focalizzato su un obiettivo solo e si è potuto fare. C'è stata disponibilità continua di persone esposte al virus, purtroppo possiamo dire, ma abbiamo avuto il vantaggio di poterlo testare in fretta. 130.000 persone testate per questi primi tre vaccini sono una cifra enormemente superiore a quella mai testata per nessun altro vaccino. Quindi stessa sicurezza, stessi standard, e quindi nessuna preoccupazione da questo lato. Professore, ma il vaccino ridurrà solo i sintomi o anche la trasmissione dell'infezione? Bella domanda, se sapessi glielo direi. Forse emerge dai primi dati, molto probabilmente dovremo aspettare i primi 2-3 mesi di monitoraggio. La finestra di non copertura comunque di potenziale contagiosità dovrebbe essere di quei 15-20 giorni, il tempo in cui si fanno anticorpi, però non lo sappiamo ancora, quindi massima cautela sotto i primi mesi, quando questo dato potremo consolidarlo. E quanto potrebbe durare la protezione del vaccino? Questa è un'altra domanda da $1 milione. La buona notizia è che ormai i primi vaccinati sono di 6-7 mesi fa, l'immunità, la protezione sembra stabile, lo verificheremo nei mesi a venire, ma sembra ogni giorno che passa si sembra confermare che sia duratura. Professor Rasi, ma noi leggiamo che il virus muta. Prima di tutto questo virus sembra avere stabilità, perlomeno nelle caratteristiche che riguardano la sua risposta al vaccino, la sua capacità di indurre una protezione. Però naturalmente il rischio c'è, quindi è bene assolutamente sbrigarsi, perché meno il virus circola, questo lo sappiamo ormai, meno circola, meno ha possibilità di mutare, e quindi prima ce lo togliamo di giro e meglio è. Una campagna vaccinale veloce è ancora più importante. Professor Rasi, ma chi si è già ammalato di Covid dovrà vaccinarsi? Sembrerebbe proprio di no, perché sembra, sono stati descritti 3 casi su 60 milioni di infetti accertati, quindi sembra di no, sembra che conferisca immunità e non direi in prima battuta non vaccinerei quelli che hanno già avuto, si può anche fare il test, tra l'altro quelli immuni sembra non debbano, vaccinarsi. Professore, come giudica la non obbligatorietà? Ma io ho delle grosse perplessità, si può senz'altro farlo non obbligatorio, fatto salvo alcune categorie di persone esposte o potenziali contagiati o contagiabili o contagiatori, e questi devono essere vaccinati, il personale sanitario deve essere vaccinato, il personale insegnante deve essere vaccinato, il personale addetto ai trasporti deve essere vaccinato, insomma ci devono essere delle restrizioni alla libertà di non vaccinarsi. Una campagna vaccinale importante che probabilmente non ha precedenti nella storia. Ma guardi, è senz'altro la logistica del trasporto, la logistica del non fare file perché la gente magari non si contagi proprio mentre va a farsi il vaccino, sono aspetti tutti di logistica molto importanti. Cosa non bisogna sbagliare? Non bisogna sbagliare, io sono più preoccupato dell'esitazione della gente a vaccinarsi che non della logistica, che bene o male mi sembra che la macchina si sia messa in moto, mi sembra che se parte in 3, 4, 5 mesi dovremmo riuscire a vaccinare, poi va vaccinata a strati di popolazione, a comunità, tipo dicevamo il personale sanitario e questo, quindi secondo me il tempo in teoria c'è, bisogna stare attenti che se non si mette l'obbligatorietà nemmeno da alcune categorie, il problema potrebbe essere questo. Certo. Oltre alla logistica. Professor Rasi, la Gran Bretagna ha iniziato la campagna vaccinale con un po' di anticipo, non tanto, ma insomma rispetto al resto dell'Europa è arrivata prima. Ma è arrivata prima di 17 giorni, non mi sembra un grande risultato. Se hanno visto i dati con troppa fretta e il 29 di dicembre. Con, cioè, 17 giorni con Natale di mezzo hanno preso di vantaggio, quindi, cioè, marginale. Poi se il 29 l'EMA non confermerà questo saranno in un bel pasticcio, se noi lo confermiamo hanno 17 giorni di vantaggio, hanno autorizzato un lotto solo, quindi dovranno fare ancora lavoro aggiuntivo per allargare la popolazione da vaccinare, potranno fare i furbi, avvantaggiarsi al lavoro raffinato e definitivo che l'EMA avrà fatto nel frattempo, cosa di cui sono contento perché chiunque ne benefici è un bene. Professor Rasi, nel ringraziarla per essere intervenuta a Obiettivo Salute Weekend, le chiedo di lasciarci un po' con un augurio, una buona notizia. Una buona notizia sarebbe quella che a Natale riusciamo a consolarci con i pochi stretti parenti o amici che potremmo frequentare, perché non potendo cambiare tutta un'infrastruttura di una nazione, tutta la logistica, se non lo facciamo ci troveremo a gestire una terza ondata oltre a una campagna vaccinale. Quindi l'augurio è che passiamo un Natale sano, un Natale sicuro, e di iniziare subito poi i vaccini. Grazie professor Rasi, buona giornata e buon weekend. Grazie a voi, buon weekend. Bene, adesso facciamo una piccola pausa, torniamo subito dopo insieme, restate con noi, e ci aspetta Andrea Vitali per raccontarci una storia. Obiettivo Salute Weekend. E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. Un'altra storia da raccontare, un'altra storia da ascoltare, storie che forse hanno qualche cosa da suggerirci che può essere utile alla storia che stiamo vivendo. E in linea con noi è tornata a trovarci Andrea Vitali, a cui chiediamo come ogni sabato raccontaci una storia. Benvenuto. Buongiorno a tutti, ben volentieri racconterò una storia. Perché? Perché una storia non è mai una cosa campata per aria, una storia nasce da un'idea e chi legge quella storia può impadronirsi, diciamo, dell'idea che l'ha fatta nascere, e quell'idea può darci un momento di felicità oppure può aiutarci anche a superare un momento di difficoltà. Questo insegnano le storie che leggiamo, che inventiamo e che vi offriamo anche tramite la radio. Allora partiamo. Questa è una storia pervasa da una tenerezza infinita, anche se ci sono di mezzo un collegio, un padre ambizioso e un ragazzino che, per soddisfare l'ambizione del padre, finisce in collegio con l'evidente scopo di studiare per diventare qualcuno di importante. Avvocato, ingegnere o medico, non importa. Tanto non diventerà nessuna di quelle tre cose. If you want, you can marry, look at me. I am old but unhappy. I was once like you are now. E questa è una storia che insegna molte cose, perché insegna che a volte i genitori, quando non tengono in conto le propensioni dei figli e vogliono agire appunto di testa propria, corrono il rischio di combinare dei guai, addirittura possono anche rovinare la vita dello stesso figlio. Ed è praticamente la storia che si narra oggi di quest'uomo che, da agricoltore qual è, pensa che la sua famiglia ne uscirebbe accresciuta in prestigio, naturalmente, se potesse contare su un figlio laureato. E così lo prende e lo sbatte in collegio, dove il ragazzo dimostra di non avere alcuna propensione allo studio, benché sia tutt'altro che stupido. Accade quindi che il rettore manda una lettera al padre illustrandogli la situazione e chiedendo che qualcuno della famiglia intervenga con la propria autorità. Ma il padre, forse intuendo che potrebbe cedere alla tentazione di usare le mani piuttosto che la persuasione delle parole, delega ad altri l'incarico. A questo punto molti probabilmente avranno capito che si tratta di uno dei tantissimi racconti scritti dal grandissimo Giovannino Guareschi, e che il delegato di quel padre è il pretone della Bassa, il famoso Don Camillo. È a questo punto che il racconto imbocca la strada di una tenerezza quasi commovente, perché il pretone della Bassa, la domenica destinata alla visita al giovane recalcitrante, ritorna a essere il bambino che è sempre stato, e passa l'intera giornata giocando con lui, correndo per i campi, ridendo, scherzando, consumando caramelle e castagne. In poche parole, intuisce in pochissime ore quale sia il vero animo del ragazzo, al punto che, dopo averlo salutato, pressoché dimentico del compito che il padre gli ha affidato, girandosi per un ultimo saluto, vede la malinconia infinita negli occhi di questo ragazzo, e allora con le sue manone allarga le sbarre di una grata che protegge la finestra del collegio, cede all'istinto e lo aiuta a fuggire attraverso quella finestra, e lo ricovera nascondendolo in canonica. Avvisato della fuga, il padre si precipita in canonica lamentando l'inefficacia dell'intervento di Don Camillo e minacciando addirittura di voler punire drasticamente il figlio. La soluzione della vicenda sta tutta in una saggia risposta del sacerdote. Nel caso del racconto, che è meglio avere un ottimo agricoltore piuttosto che un pessimo e magari infelice avvocato, medico o ingegnere. Naturalmente, Don Camillo illustra il concetto grazie a una bugia raccontata a fin di bene, che salva il futuro del ragazzo e riporta l'uomo al ruolo che gli compete: padre, non padrone del destino altrui. Grazie Andrea per questa bella storia che, come tutte le storie, insegna che... Questa è una storia che insegna la consapevolezza, diciamo, la consapevolezza di quello che sta accadendo, la consapevolezza di quello che siamo, ma anche, diciamo, la consapevolezza di quello che possono essere gli altri. In questo caso il padre è assolutamente inconsapevole di avere sotto le mani, di avere tra le mani un figlio che farà fruttare la terra, e che sarebbe meglio impiegare così anziché farlo diventare un pessimo ingegnere, un pessimo medico, un pessimo avvocato. Ha ascoltato in silenzio la nostra storia Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta, a cui chiediamo intanto ciao Alberto, benvenuto. Ciao, saluti a tutti. Alberto, quando parliamo di genitori e figli, naturalmente non possiamo fare a meno di pensare a te, ma con te noi, dalla storia che Andrea ci ha raccontata, arriviamo alla nostra quotidianità, alle sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare, alle occasioni che possiamo vivere e che, come dici tu, accendono pensieri. Sì, questa è una storia davvero molto bella. A noi genitori dà un sacco di discrezioni proprio per l'uso, cioè ci dice proprio che in qualche modo la vita dei nostri figli ci è affidata, ma non è determinata da noi. Ed è un po' una metafora anche di quello che sta succedendo nelle nostre vite in questo tempo, cioè noi dobbiamo fondamentalmente accogliere la vita con quello che ci porta, spesso c'è molto bello, cioè a volte c'è tanto brutto e tanta fatica. Questo Freud l'aveva proprio un po' detto, no? La crescita e diventare adulti è uscire dal principio del piacere, entrare nel principio della realtà. E forse dentro poi a questa storia davvero molto bella che Andrea ci ha proposto, c'è per noi in questo tempo la capacità di vedere la differenza tra il concetto di resistenza e il concetto di resilienza. Resistere vuol dire essere rigidissimi e muoversi nella vita sbattendo eventualmente contro le cose e con la convinzione che noi non ci rompiamo. E la cosa importante è non cambiare, non trasformarci. La resilienza invece è una cosa completamente diversa, vuol dire trasformarci in funzione di quello che la vita ci propone, cambiare proprio la nostra forma e poi pian piano adattarci alla vita e trovare quella dimensione di noi e quella forma di noi che ci fa sentire le persone giuste al posto giusto, nonostante le avversità, nonostante quello che capiti sia magari molto diverso da quello che avevamo immaginato o desiderato. Andrea, la storia, come tu racconti, è una storia che ha una tenerezza quasi commovente. Di questa storia a me colpisce il gioco del pretone della bassa, che si mette proprio a saltare per i campi, a stare con il ragazzo con una freschezza ed un entusiasmo che sono, secondo me, degli ingredienti che in questi giorni ci mancano, ma che ci potrebbero aiutare. Andrea. Sì, mi colpisce anche un'altra cosa di questa storia, che ribadisce come le storie siano piene di idee, perché non credo che Giovannino Guareschi abbia avuto molta confidenza col concetto di resilienza. Peraltro in questa storia lo anticipa in un certo senso, perché quel genitore così ottuso da resistente diventa resiliente e così apre finalmente, diciamo, a una vita felice il destino del proprio figlio. Alberto. Quindi ritorniamo nella nostra storia, di storia in storia prendiamo dei frammenti che sono sempre attuali, indipendentemente dal tempo. Sì, e credo che qua un altro concetto molto bello è proprio il concetto di cambio del copione. Noi spesso ci scriviamo, no, un po' il nostro copione immaginario, ideale delle nostre vite. E del resto, no, anche il sacerdote va a incontrare il ragazzo con in mano il copione che gli ha consegnato il papà e in realtà poi si immerge nel qui ed ora di quell'incontro e di quella relazione e cambia tutto, quasi si dimentica cos'era andato lì a fare, perché è troppo importante stare in quell'istante lì in relazione con quel ragazzo lì, di cui perciò intuisce proprio in una modalità che è tanto libera e anche molto bella, quali sono poi le caratteristiche e le aspirazioni. Direi che è veramente un brano molto ispirazionale, ci dà un sacco di tracce su cui riflettere per le nostre vite e ci dice che fondamentalmente alzare lo sguardo e guardare oltre è poi la cosa che ci aiuta di più. Grazie allora ad Alberto Pellai per questo commento, grazie ad Andrea che ci ha raccontato questa storia e ci ha permesso di fare queste sottolineature, questi pensieri. Grazie a voi e io saluto anche proprio Andrea con tantissima amicizia e molta ammirazione. Grazie, ci mancherebbe. Grazie mille. Allora non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani alle 12 alla Bufale in Tavola e augurarvi buone storie. Buon sabato da Nicoletta.